Padre Possi non ha nessuna difficoltà se qualcuno vuole presentare delle domande, perché qui senza dubbio infinite cose ci sarebbero da approfondire e da riflettere. Io mi immagino che nessuno di noi è paragonabile a un uomo così istintivo e insomma esplosivo, vulcanico come Jacopone, che però certi problemi di fondo sul linguaggio religioso, anche così molto terra a terra, senza che ci pensiamo per niente, ma insomma ricordandoci che c'è molto al di sotto e molto al di sopra di quello che anche il nostro povero quotidiano linguaggio riesce a cogliere e che pur si coinvolge in qualche maniera. Credo che anche al più umile operatore nel campo dell'insegnamento di scienze religiose, senza dubbio quanto abbiamo sentito può dare un qualche indirizzo. Vorrei invitare, se c'è qualcuno appunto che ha piacere di... Ecco, in fondo c'è Avrei una dovuto domanda. leggere Sì. le laudi, ma ci vorrebbero ore e ore. Ho visto con piacere che ha citato De Sanctis, perché oggi io mi sono ricordato della sua prolusione, allora mi sono preso il De Sanctis perché sapevo che era qualcosa che poteva essere interessante. Per me è stato interessante, e lei l'ha sottolineato, sia pure discorso, il fatto che De Sanctis, dopo aver parlato di Guido d'Arezzo, no, di Guitone, di Bologna che aveva Guido e di Firenze che aveva Brunetto Latini, dice però c'è Todi che aveva il suo Jacopone e ricorda appunto che degni di maggiore attenzione rispetto a questi altri autori, scrive testualmente, sono le poesie di Jacopone come quelle che segnano un nuovo indirizzo nella nostra letteratura, perché siamo ai primordi della letteratura italiana. Dopo la scuola siciliana sono i toscani, siamo nel 1200. Ecco, questo volevo ricordare. E lui dice, non sa di provenzali o di trovatori. Questo Invece, sa, motto le è ignoto, dice. no. Dico quello che dice lui. E non cura l'arte, però dice una cosa, vuole dare sfogo a un'anima traboccante di affetto esaltata dal sentimento religioso. Lui dice, e non so se ignora anche teologia e filosofia, non ha niente di scolastico, però le sue poesie, che ci furono conservate come libro di devozione, anziché come lavoro letterario, che invece lo sono, dice, ecco, mette in rilievo questo aspetto che ad alcuno è apparso di trascurare. Ma una cosa che io vorrei ricordare del De Sanctis è che lui dice, a preghiere, sdegni, follie d'amore, fantasia, estasi, visione, che tutto trovi in Jacopone al naturale. Ma dice, nei suoi impeti riescono forme di dire così fresche e felici che non disdegnarono di imitarle. Naturalmente io ho portato questo come piccolo contributo, come anche il De Sanctis cita due versi che per lui hanno del sublime. Il sublime del gotico, dice, ci si sente nel giudizio universale di Jacopone, laddove la veduta di Dio ti circonda senza che tu lo veda, chiarissimo sentimento inaccessibile all'immaginazione. Di qui, dice, il grande effetto di due versi stupendi che sono veri decasillabi, sotto l'apparenza di endecasillabo, pieni di movimento e di armonia. Che la veduta di Dio mi circonda e di ogni loco paura mi desta. Li cita come. Ecco, poi parla di pensieri morali. Ecco, chiuderei chiedendo al professore se è da attribuire, come mi pare che taluno attribuisca a Jacopone Zatosli, anche lo Stabat Mater, perché a me sarei grato se mi illuminasse su questo, perché lo Stabat Mater per me è molto significativo, soprattutto laddove parla la chiusura. Quando corpus morietur, fac ut anime donetur, paradisi gloria. Grazie, può rispondere subito, padre. Io rispondo subito. Lo Stabat Mater è dubbio, è attribuito a Jacopone, ma non ci sono prove. E d'altra parte, essendo sola composizione latina eventuale, non ci sono termini di raffronto. Quindi il dubbio resta. Quanto a De Sanctis, ma De Sanctis scriveva, vero? La bellezza di oltre un secolo fa, e la letteratura di De Sanctis è un capolavoro, ma è un capolavoro classico, vero? Per come steso, ma non risponde più, e non rispondeva nemmeno allora, vero? A una storiografia che verifica i fatti. Che Dante e men che meno il Tasso, Jacopone, ma immaginarsi, vero? No. La raffinatezza del Tasso, che poteva leggere Jacopone, ma neanche per sogno, vero? No. Sono cose, vero, che in una sintesi così come De Sanctis, vero, nella linea in cui proponeva la letteratura italiana, vero, come un elemento fondatore dell'unità politica d'Italia, si capisce, vero, che questi legami potevano andare bene. D'altra parte, lei ha sentito come De Sanctis dice che Jacopone, vero, non conosce provenzali, e usando le coplas de Caffenidas, date a intendere che invece conosce i provenzali, no? Dice, era l'idea del Jacopone rozzo, ma invece ha delle figure retoriche molto complicate e talte, e quindi rozzo non era. D'altra parte, è questo che di Jacopone, da un punto di vista biografico, non sappiamo niente, perché le vite di Jacopone sono vite molto tarde, e gli episodi, non so, vero, ve ne racconto qualcuno che sono deliziosissimi, che riguardano Jacopone, sono ricostruiti sopra le laudi. Quindi noi sappiamo che questo era notaio. Ora, un notaio era un personaggio importantissimo, no, nella vita del comune italiano medievale, specialmente dell'Italia centrale. Quindi aveva fatto le scuole. Non erano persone ignoranti, come non lo era San Francesco. Avevano una struttura scolastica di livello notevole, esercitava il notariato e perciò sapeva anche il latino, non c'è dubbio. No? Quindi la leggenda jacoponica è una leggenda vecchia del pazzo di Dio e così via. Episodi. Un giorno Jacopone si è convertito, secondo appunto la leggenda, e perché in una festa da ballo è sprofondato il soffitto, il pavimento dove si ballava, e sua moglie è morta. E sotto il vestito da ballo della moglie hanno trovato che portava il cilizio, e questo ha talmente colpito Jacopone che si sarebbe convertito e fatto, vero, non frate francescano ma penitente, poi diventerà frate francescano più tardi. E allora incominciò a fare una vita di penitenza, non soltanto, ma farsi disprezzare e provocare, e soprattutto questo, non so, vero? Per esempio, attraversò un giorno a quattro pattes, come si dice in francese, a quattro nudo, la piazza di Todi, vero, con dentro il freno dell'asino, vero, per umiliarsi. Oppure provocatorie, un giorno lui portava pesi, andava al mercato e portava, vero, umiliandosi, portava pesi e legna, e un giorno uno, per beffarlo, gli ha dato una gallina e gli ha detto: portala a casa mia, nobile. Quando arriva a casa domanda alla moglie della gallina, e la gallina non c'è, e allora va a pigliare Jacopone perché non ha eseguito il suo comando, e Jacopone dice: sì, l'ho portata a casa tua, vieni. È andato, e ha scoperchiato la tomba di famiglia, gli ha detto: questa è casa tua, cioè sei un cadavere vivente, no? E così via, così via. Quando si sposò il fratello l'avrebbe pregato di non presentarsi alle nozze, e lui si cosparse, vero, di miele il corpo, si avvoltolò in mezzo a piume di uccello e si presentò vestito a questo modo, vero, pieno di piume, suscitando scandalo. Ora, tutte queste sono delle leggende che sono nate precisamente da una interpretazione delle laudi, no? Del Jacopone, vero provocatore, pazzo e così via. E qui anche una difficoltà, no? Perché non abbiamo degli elementi della sua cultura al di fuori delle laudi. E un'interpretazione di questo genere è molto facile. No? Prego. Spero che non mi tremi la voce, ma ho sentito fra l'altro che lei ha detto che il linguaggio del mistico della seta è un linguaggio considerato dal mondo come un linguaggio rozzo dall'espressione a una lingua barbara, no? Mi sembra, rozza, considerato dal mondo, no? Ho guardato qui il programma di insegnamento del 94-95 svolto da Baldini e filosofia prima e vedo fra l'altro Massimo Baldini e le dimensioni del silenzio nella poesia, nella filosofia, nella musica, nella linguistica, nella psicanalisi, nella pedagogia e nella mistica. Questo linguaggio mi sembra qualcosa, l'ha sentito nella sua prolusione. Dimensioni del silenzio, poi mi piacerebbe sostenerlo questo esame perché a vista dei logici, cioè di quelli che bramano, esaltano, mettono sul piedistallo la logica, io non sono di quelli, sono di quelli che piuttosto mettono l'illogico, l'irrazionale. Attraverso il razionale e il logico arriva anche le cose concrete, forse uso un linguaggio un po' strano, ma scusate i miei limiti. Allora, tiro queste conclusioni, dato che anche in questi giorni c'è un muro fra quello che mette sul piedistallo la logica, tutto con la logica si può risolvere, e io non ci credo. Non ci credo proprio perché... Nella mia esperienza, quelli che parlano di logica, sono talmente illogici che si arriva all'illogica. Allora. Ecco, domanda, questa logica, domanda, ecco, hanno ragione i logici o gli illogici? Non si può dare una risposta. Risposta, per mio conto, a mio modesto avviso, è il silenzio. Non si può mettere dei limiti al pensiero, sia logico, sia all'amore. L'amore è illimitato, non ha limiti, dovrebbe essere Dio. Scusi, ma che domanda mi fa? Prego? Non mi ha fatto nessuna domanda, quindi sì. Non posso rispondere. Appunto, no, non lo posso. Amore io sono per la logica, no? Per la logica, e credo di aver usato logica, e non illogica. La logica della croce è illogica. Cos'è la logica della croce? È di Gesù Cristo crocifisso. Ma cosa sente? Scusa. Non è pertinente questo. La logica della croce è anche quella una logica. Ma qui stiamo uscendo dal seminato. Vado fuori dal binario? Posso fare io una domanda ancora? Ecco, mi domando se l'amore e l'ottimismo del Cantico delle Creature, che pure è una grande eredità francescana, è totalmente assente dall'orizzonte di quest'uomo, oppure se e in qual modo viene assimilata. Stento a capire che debba totalmente anche questo accento positivo di ammirazione verso la realtà cosmica e questo senso così umano, così positivo, umanistico che in Francesco incanta in questo modo, se è andato del tutto perduto in un seguace francescano come Jacopone. Ma io... Adesso qui non vorrei prolungare le cose, ma ritengo che bisognerebbe chiarire cos'è il Cantico di Frate Sole, di Francesco, perché molto spesso lo si prende come un afflato, diciamo così, però verso la natura, verso le cose sensibili che vediamo, che tocchiamo. Ora io ritengo invece che il cantico di Frate Sole sia una lode, la lode, vero, divina, per la struttura del cosmo e dell'uomo. Cioè, San Francesco nel cantico di Frate Sole nomina che cosa? Il fuoco? L'aria? Dunque, l'acqua, scusate, e la terra, cioè nomina i quattro elementi della filosofia, vero, medievale. Sono i quattro elementi, è la struttura del cosmo più il firmamento. E quindi non, in Francesco prevalgono i valori astratti e concettuali. E così è vero dell'uomo. Quindi non è un mondo sensibile, vero? D'altra parte, la qualifica stessa di fratello e sorella è una qualifica intellettualistica. Sono fratello e sorella non romanticamente, no? Intesi come un qualche cosa, vero? Così, di concreto, di reale, di affettivo, ma sono fratello e sorella perché creati da Dio come noi. E quindi la nostra figliolanza crea la fratellanza. Io ritengo questo, vero? Quindi anche qui ci troviamo, vero, di fronte a un testo poetico, senza dubbio, che però va inteso non nei termini immediati coi quali è interpretato dalla sensibilità moderna. Il fatto, vero, che lei dice è una delle obiezioni che fanno precisamente alla possibilità poetica di Jacopone. Ma come dicevo, quello di Jacopone è una struttura antropologica. Cioè in lui c'è l'uomo. E quindi dobbiamo cercare gli aspetti positivi, gli stessi, vero, la traccia di Dio, cioè, nell'uomo e non nel cosmo, perché il cosmo non entra nelle poesie di Jacopone. Cosa poi pensasse Jacopone, vero, per rapporto al creato? Questo è un altro discorso. Bisogna poi pensare anche questo, che insomma tutta la questione del mondo e del creato, come è vissuta da Francesco, non è che si trovi poi in tutto il francescanesimo primitivo negli stessi termini, no? Testi francescani che assolutamente questo tasto non lo toccano. Ci rendiamo conto sempre di più che poi questo francescanesimo, vero? Insomma, San Francesco non è che accarezzasse i gatti, no? Santo cielo. Bene, grazie anche della risposta, che sono state illuminanti. E passiamo ora all'ultima parte, brevissima, ma non meno importante di tutto il resto, vero, che è